chiaro, ne prendiamo 20. Ma perché, perché devi essere così negativo? Allora, scommetto con tutti gli ascoltatori. La Spagna mi sembra favorita, certo. Spagna mi sembra favorita. Io li ho visti l'altro giorno distruggere la Turchia. Sì. Con una squadra impressionante. Però avevano pure perso con la Serbia, no? Sì, ma sono una squadra impressionante. Ne prendiamo 20 e scommetto con tutti gli ascoltatori. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Vita di tiro e poi tiro di Marco Bellinelli, la tripla dopo i liberi e dopo il rimbalzo miracoloso. Bellinelli forzato da tre, segnato da tre, batte forte il cuore dell'Italia. Cicciarini per Gallinari, il re del tiro strano, o famo strano stasera, batte forte il cuore dell'Italia. Bellinelli contro Mirotic da tre. Riapre per anche di tocco e poi al volo Bellinelli, è il Brasile del 70, è uno spettacolo grandioso, è uno spettacolo grandioso, è Italbasket, Italbasket. Mi tornano i brividi, ringrazio Giorgio De Luca per aver mandato all'inizio del programma il mio pronostico, che era quasi corretto, no? Ho detto l'Italia ne prende 20. Più o meno è andata così. No, non è andata così. È andata così. 105 a 98 per noi, per una delle più belle edizioni dell'Italia del basket che io mi ricordi. Abbiamo con noi uno dei coach più vincenti della storia dell'Ital Basket, cioè Charlie Recalcati, che è un amico sul cui petto continua a brillare la medaglia olimpica di Atene 2004, e penso che si sia divertito un sacco anche lui ieri sera. Ciao Charlie. Sì, sì, ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto grazie di avermi convocato, perché mi hai fatto riprovare l'emozione di essere convocato. Ma grazie a lei professore, lei è convocato quando vuole. No, mi sono divertito molto, perché il tuo pronostico era un po' il pronostico di tanti. Il timore era quello, no? Il timore era quello, perché effettivamente la Spagna si era vista il giorno prima, l'Italia si era vista il giorno prima, non erano proprio esattamente ciò che abbiamo visto poi durante la partita, fortunatamente. Mm. Hai ragione nel dire che è stata una delle più belle partite in assoluto della squadra nazionale italiana. A me ha ricordato molto la nostra partita semifinale con la Lituania. Sì, sì, sì, anche a me. Come precisione, come balistica. Posso, come io emozione. Posso dire, io c'ero. e quindi bene, insomma, sicuramente bene. Chiaro che adesso il percorso dobbiamo prendere slancio da questa vittoria. È stata una vittoria senz'altro dettata anche da una giornata di particolare grazie al tiro, però come dice un mio amico, insomma, se giochi a pallacanestro, giochi a pallacanestro che devi fare canestro, sì. Perché sennò è un po' difficile venirne a capo. Però bisogna pensare che poi dopo le percentuali possono anche calare e devi essere pronto a sfruttare appunto la spinta emotiva data da una partita così e da una prestazione così convincente per vincere oggi, perché è chiaro che sappiamo benissimo che se oggi non fossimo capaci di vincere, butteremmo a mare ciò che di bello abbiamo fatto ieri. Invece quello di ieri deve essere veramente il punto di partenza per poter proseguire il nostro cammino in questo campionato europeo. Il trampolino, Charlie, il trampolino, altrimenti si rischierebbe di fare come diceva il professor Nikolic, riempire secchio e dare calcio. E dare calcio, sì. Speriamo, anzi siamo convinti che non sarà così. Siamo convinti che non sarà così. Sì. Ti daranno una soddisfazione anche questa sera. Sì, sarà complicata, sarà forse anche emotivamente più difficile. Non semplice, perché la Germania gioca in casa, perché la Germania rischia l'eliminazione, quindi questa è veramente una partita dentro fuori per tutte e due. Chiaramente ci sarà il fattore ambientale che non aiuterà la nostra squadra, però devo dire anche che insomma, emotivamente, come dicevo prima, si gioca molto anche sulle emozioni. Insomma, ieri abbiamo avuto una bella spinta, quindi dovremmo essere in campo belli carichi. Charlie, sai cosa mi ha fatto impressione ieri sera? Quando guardiamo le partite della nazionale siamo abituati comunque a star lì guardando il cronometro, vedendo quanti secondi mancano, facendo una fatica bestiale a fare canestro. Ieri sera io sinceramente il cronometro me lo sono dimenticato. A un certo punto non l'ho più guardato. È stata una di quelle serate in cui ti riesce tutto molto facile, quindi sono serate anche un pochino particolari, non voglio dire irripetibili perché si spera che ce ne possano essere anche delle altre, però nel percorso di una squadra, se parla di club, di una stagione, se parla di nazionale, insomma di una manifestazione come possono essere campionati europei, mondiali, Olimpiadi, ci sono dei momenti in cui se ti capita una partita di questo tipo qua, poi dopo ti fa vedere tutto in modo diverso, vai in campo che ti senti straforte, invincibile e pronto a batterti contro tutti, insomma, quindi credo che il grande segnale che ci ha dato quella partita deve essere proprio questo certo. Fatto qua di andare in campo oggi proprio con la convinzione comunque di essere competitivi, di poter battere di essere una squadra che tutto il talento che aveva in mano, che aveva sulle spalle ieri sera ha dimostrato quasi all'improvviso, si è quasi accesa la luce. Charlie, ti chiedo un attimo di pazienza, traffico, poi chiudiamo il discorso. Vi invito anche per sbeffeggiarmi 800 24 00 24, io sono felicissimo di aver portato fortuna all'Italia. Poi faccio un altro pronostico su Italia-Germania a dopo. To Cousine. Right now you gotta wonder where the offense is gonna come from for Italy. Give it to Bellinelli. Oh, Bellinelli! Bravo, Bellinelli! Bravissimo, Bellinelli! Are you kidding me? Tutti convocati. Tutti convocati. Noi tanta gente non lo so, ma noi ogni volta che andiamo in campo, anche se magari non si vede, andiamo comunque sempre con l'idea comunque di dare il massimo, di vincere veramente qualsiasi partita per noi stessi e poi sicuramente per tutta l'Italia. Quindi ci meritiamo questa vittoria, però bisogna continuare così, insomma, stiamo comunque sempre con i piedi per terra e cerchiamo comunque sempre di migliorare. Marco Stefano Bellinelli, questo che avete sentito, 7 su 8 da 3 punti per la mano santa di San Giovanni Persiceto ieri sera in un secondo tempo che sinceramente chi ama il basket non dimenticherà mai, non voglio essere troppo enfatico. Mi ha raggiunto telefonicamente oggi Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Sono con il direttore, sono col dottor De Paolo, che qui mentre stavo cercando di trovare una macchina col car sharing, tutti convocati, Radio 24, il bello della diretta. Pronto, convocato. Pronto, sì. Eccoci, buongiorno. Salve. Stiamo parlando con Carlo Recalcati di basket e di quello che abbiamo visto ieri grande sera. Grande impresa con la Spagna. Abbiamo massacrati, bellissima cosa. Sì. E adesso che succede? Oggi c'è la Germania e poi? Poi vediamo. Poi cominciamo ad andare a Lille. A fare un giretto in Francia. Poi ce la giochiamo. Grazie. Era un passaggio volante, salve. Grazie. Volevo sentire di nuovo cosa Recalcati. Sì. Si era detto, Carlo, che uno dei problemi, dei grandi problemi, delle incognite di questa nazionale era quella di trovare della gerarchia in mezzo a tutto quel talento. Io credo che ieri sera Simone Pianigiani, che è stato tuo discepolo a Siena, come sappiamo bene, sei stato, sì, il suo mentore, abbia vinto il confronto diretto con un mamma santissima della pallacanestro europea come Sergio Scariolo. Posso dirlo? Ma sì, sì, perché poi alla fine, sai, le due squadre, per come sono scese in campo, dicono questo. È chiaro che Sergio ha iniziato questi europei in difficoltà, perché ha perso la prima partita contro la Serbia, poi ha fatto un'ottima partita la seconda giornata contro la Turchia. Ha una squadra che ha chiaramente le sue gerarchie, perché sono ormai consolidate da anni. Ha qualche assenza che però non giustifica chiaramente assolutamente nulla, perché la Spagna è una di quelle squadre che effettivamente può schierare due nazionali dello stesso valore, però ieri sera è fuori dubbio che l'Italia ha dominato la Spagna, e l'ha dominata anche nei momenti in cui sembrava che la Spagna riprendesse quota, perché noi abbiamo parlato prima, giustamente a mio avviso, del fatto che abbiamo avuto percentuali molto alte, questi qui ci hanno aiutato, e questo è fuori di dubbio. Però è anche vero che tatticamente non abbiamo permesso alla Spagna di correre, sì, credo che abbiano fatto al massimo 4 contropiedi o 4 transizioni veloci, e il segreto, se vuoi giocare contro la Spagna, è proprio quello di costringerli invece a giocare contro la tua difesa, transizione difensiva perfetta. È lì che Simone ha vinto la partita. Carlo, un'ultima cosa, ti faccio una domanda quasi filosofica, che può essere trasportata ad altri ambiti sportivi. Allora, sì, ci facciamo un sacco di domande a proposito soprattutto del calcio, e troppi stranieri, e i giovani italiani, e i vivai, e tutte queste cose. Non mi sembra che nel campionato italiano di basket, e tu lo sai benissimo perché lo frequenti ancora, non mi sembra che ci siano pochi stranieri. Eppure, guarda che ti nasce la nazionale forse più talentuosa di sempre. Dov'è la verità? La verità è sempre nel mezzo. È la squadra, sicuramente la squadra che è più talentuosa. Allora ti potrei dire che, insomma, con il talento si nasce, e quindi sarebbero comunque nati questi ragazzi. Brava qua, le mamme, ho capito. Però è anche vero che, ad esempio, è la nostra squadra più talentuosa, però non è completissima, perché ad esempio purtroppo rispetto al passato cresciamo molti meno centri di quello che si era abituati, e quindi è una squadra che potrebbe essere ancora più forte se effettivamente il talento fosse diffuso in tutti i ruoli, cosa che non è. Detto questo, dire che è colpa dei tanti stranieri mi sembra obiettivamente abbastanza, voglio dire, fuorviante. Sì, fuorviante, forse non vai a centrare quello che è effettivamente il problema. Insomma, noi è chiaro che abbiamo un problema, perché facciamo meno formazione di quanto facciamo prima, o quantomeno i nostri giocatori hanno bisogno, rispetto ai pari età delle altre nazioni, più tempo per potersi formare. Ma questo discorso molto vecchio, annoierebbe probabilmente gli ascoltatori, però no, voglio dire, non c'è una verità assoluta, ecco, per o quantomeno non c'è una sola risposta a questi due posti. Certo, chiaro. Grazie Charlie, a presto. Grazie a voi, un piacere. Ciao Carlo Recalcati. Pierluigi, sei lì? Vi ascolto in silenzio da parecchi minuti, è stata una grandissima serata. Io ero fisicamente a Torino per un'altra tanto bella serata benefica fra Juve e Boca Junior, ma insomma quella com'è che è andata poi? Ieri, tra l'altro tu l'avevi prevista, no? La vittoria, avevi detto, diceva l'Italia di 20-30 punti. Sì, sì, avevo detto che ne avremmo presi 20. Ovviamente oggi è il giorno delle pernacchie che mi merito tutte, e sono felice, ma sono felice di prenderle, perché ma mai fare questi pronostici di 20, ma... di 30, tutto, tutto il contrario di tutto, così lo sbagli mai, no? Com'è andata a Torino? Benissimo, no, bellissima serata. Devo dire, fra l'altro, che per essere una partita, diciamo, benefica di vecchia gloria, Juventus Boca Junior, sì, è stata una partita vera, lo dice anche il risultato. Cioè, non è finita 8-7, è finita 1-1, poi ha vinto il Boca ai calci di rigore. Ma devo dire che c'è stata intensità. Sono rimasto abbastanza sconvolto nella condizione di caniccia, per dirti, ancora veramente molto, molto mobile. Poi Nez, Davis, Trezeguet, lo sappiamo che si tengono in allenamento, di là c'era un totem come Martin Palermo, giocatore eccezionale, quindi no, sarà molto bello, devo dire, sarà molto bella e molto vera, al di là degli aspetti benefici, ma sarà veramente una bella serata. Peccato poco pubblico, lo dico sinceramente, 8.000 persone. Questo mi stupisce abbastanza, perché di solito sono partite sì, che richiamano grandi folle, anzi l'abbiamo spesso detto, no? La comunicazione non ha funzionato, però insomma, comunque bel progetto, bella serata. Marco Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno, sono perfettamente d'accordo con i Cosa Caicati, dopo aver visto la partita di ieri sera, tanto Gasol 25-30 punti li fa sempre, gliele facciamo fare, non è un problema. Un centro, Bargnani 4-5, Bellinelli, Gallinari e un'altra guardia, dai, giocatore di basket, posso giocare anch'io, siamo imbattibili. Imbattibili, andiamoci un piano. Un centro che fa autostrade, sì. Un centro che fa autostrade, come dice il coach, perché i gatti siamo imbattibili. Sì, avere un altro Meneghin prima o poi nascerà. Arriverà, fra 2 o 3 anni arriva. Ah. Perché Bellinelli ha fatto quello che faceva Sant'Antonio, Sì, no, Bellinelli ieri spaventoso, tra l'altro non doveva nemmeno giocare perché non stava bene. Primo tempo. Ma quella gente lì non è così. Però ha visto primo tempo 2 punti, 1 su 6 al tiro. È vero che ha fatto diversi assist, 3 già nel primo tempo, poi ne ha fatti 7 nel secondo tempo, ma secondo tempo è stato qualcosa di inimmaginabile. Ma non solo per Bellinelli, Gallinari, Bargnani, ma possiamo fare l'elenco di tutti quelli che sono entrati in campo. Aradori che ha fatto cose importantissime. Cousin, chiunque ieri ha portato 1, 2, 3, 4 mille mattoni. Giuseppe Teramo. Sì, sono qui. Sì, una un paio di considerazioni sul basket. Uno, apro il libro della preistoria del basket. Sì. Per andare dove? Vittoria dell'Italia del basket contro la Russia. E ho visto quell'intensità ieri sera, parlo di 40 anni fa. Sì. Sicuramente è l'intensità dei Meneghin della preistoria del basket, dei ragazzi che giocavano a grande. E seconda cosa è sul vivaio. Il vivaio nasce perché ci sono delle società che investono sui vivai, nasce dal fatto che c'è molta più visibilità attualmente mediatica del basket. Ma anche però Giuseppe, anche nel basket ci siamo lagnati per anni del fatto che c'erano troppi stranieri in Serie A, che i vivai italiani non producevano più giocatori di talento, eccetera eccetera, e paradossalmente, Pierluigi, quante volte l'abbiamo sentito questo discorso nel calcio? Probabilmente ha ragione Recalcati quando dice brava le mamme in questo caso, quelle dei calciatori che si impegnano, che ci diano qualche talento in più, insomma. Ci sono delle caratteristiche, diciamo, tra virgolette casuali, no? Biologiche, certo, bravo. Migliori peggiori, questo in ogni sport. Non è che improvvisamente gli italiani amino meno il calcio, abbiano gli allenatori meno bravi rispetto a 20 anni fa. Ci sono le generazioni, tanto per fare un esempio calciofilo. Sicuramente quello che succede negli ultimi anni nei grandi sport, il calcio su tutti, ma anche il basket, è che si assiste a una forma di livellamento, è un livellamento dovuto al fatto che lo sport è una cosa bellissima, è sempre più popolare, è sempre più praticato in giro per il mondo, per cui tu puoi avere l'Islanda, per citare l'esempio più fresco, che si qualifica agli europei e che fa un'ottima figura anche nel basket, paesi meno tradizionali, però è vero poi che comunque tu investi sul vivaio, se tu credi essenzialmente se tu credi nell'investimento che non ti dà il ritorno domani mattina ma te lo dà magari tra 2 o 3 anni, beh, è chiaro che incentivi questo tipo di meccanismo. Sicuro. Intanto ci fermiamo per la borsa. Vi dico, a proposito di calcio, una notizia che è di stamattina: la Croazia, nostra avversaria nel girone di qualificazione europea, sto parlando di calcio in questo caso, ha licenziato a metà del guado l'allenatore Niko Kovac, per dopo i pessimi risultati, la sconfitta con la Norvegia 0-0 con l'Azerbaigian, quindi Croazia in caduta libera. Beh, così tanto non ci dispiace, facciamo un po' i tifosi. Borsa. Incredibile, sì, grandioso, è stato come giocare in casa, è stato veramente un fattore enorme per noi oggi il pubblico. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Si staggered, oh it's in! San Marino have equalized! Matteo Vitaioli with a thunderbolt! And suddenly, 10-man Lithuania have been pegged back! Ieri sera però non sono state tutte rose e fiori, eh. Non c'è stata solo la nazionale italiana di basket, non c'è stata soltanto Roberta Vinci, e poi ne parleremo, che ha conquistato la finale di US Open, e alle 5 del pomeriggio italiano aspettiamo Flavia Pennetta, perché averne due in semifinale agli US Open sarebbe clamoroso. Non sono state tutte rose e fiori, perché c'è anche qualche spina, qualche dolore, come quello di San Marino. San Marino che ieri ha giocato contro la Lituania e ha segnato il suo primo gol in queste qualificazioni europee contro i 27 subiti, ma questi sono dettagli. E soprattutto al 93esimo, al terzo dei 6 incredibili minuti di recupero concessi dall'arbitro, ha subito un gol stranissimo, peraltro di tacco, grande culo, del 2-1, altrimenti avrebbe addirittura portato a casa un pareggio. Autore di questo gol storico, Matteo Vitaioli, che oggi abbiamo cercato per convocarlo, non ce l'abbiamo fatta. Comunque gioca in eccellenza nel Tropical coreano, e se è collegato con noi, per favore ci chiami, perché vorremmo fargli i complimenti. Lo scorso gol di San Marino era datato 10 settembre 2013, nell'1-5 contro la Polonia, in quel caso si trattava di qualificazioni mondiali. E poi abbiamo un altro che risale al 25 aprile 2001 contro la Lettonia, quelle erano qualificazioni europee, giusto? Era l'unico gol segnato in trasferta. Vabbè, Paolo Varese, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti, grazie ciao. Mille per l'opportunità di esprimere la mia opinione. Ovviamente siamo tutti contenti, ma faccio una premessa, eravamo tutti secondo me d'accordo con te ieri, l'altro ieri, pensando che avremmo preso una bella legnata dalla Spagna, perché quello che si era visto prima dava un po' questi indizi qui. Quindi sono stato il primo, insieme a tantissimi italiani appassionati di basket, a saltare sulla sedia e sulla poltrona per i canestri e la vittoria. Mi permetto però di dire una cosa, non per essere una voce fuori dal coro, però secondo me ci sono sì troppi italiani, troppi stranieri nel campionato italiano, e mi rifaccio agli europei giocati in terra italiana in quel di giugno, Under 20, dove, se avete avuto modo di vederli, i nostri giocatori giovani, cioè la maggior rappresentazione del nostro basket giovanile, non ce n'era uno che prendesse una responsabilità. E questo secondo me è dovuto proprio a quello che vivono durante la stagione nelle squadre di Serie A, dove sono abituati a dover a guardare, a fare allenamento, ad avere poco spazio. Però sono due discorsi che sono parzialmente diversi. Poi i nostri ragazzi, se avranno voglia, talento, fame, andranno a giocare magari all'estero, magari nell'NBA, magari qui, che si conquisteranno il posto. Quello che dico io è che, curiosamente, in un momento in cui continuiamo a dire che ci sono, è vero, intere rose composte da giocatori stranieri nel basket italiano, però guarda caso in questo contesto è nata la nazionale più talentuosa di sempre. Manca un lungo, manca un centro forte, dominante, come ha detto giustamente Recalcati. Non siamo perfetti, ma quello che abbiamo visto ieri sera nel secondo tempo alla perfezione ci va vicino. Fabio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io sono uno di quelli che, come lei, ieri pronosticava un ventello da parte della Spagna a questo livello, per cui non sto qui a sbeffeggiarla, per cui sono contentissimo di essermi... Mi risparmio la perna, che merito, pure io. Che facciamo con la Germania? Ecco, appunto, sono due cose che mi preoccupano un po', insomma, diciamo così, per la partita stasera. Uno, la tenuta mentale della nostra squadra, che spero che dopo la prestazione ieri sera riesca a mantenere la stessa intensità e che sia una cosa che possa proseguire. Due, il minutaggio che potrà avere Gallinari, visto che si tratta di un back to back, come si suol dire, e che, mancando anche da Tome, si accorcia un po' le rotazioni di Pianigiani, che potrebbe magari essere un problemino per la partita di stasera. Ecco, poi magari Gallinari 30 minuti, però ecco, diciamo che normalmente back to back comportano sempre delle difficoltà, però questo vale anche per la Germania, dove c'è il totem, quel mostro di Dirk Nowitzki, che di anni ne ha 37 ed è, se non ricordo male, ma penso di non ricordare male, il giocatore più anziano dei campionati europei. Certamente sarà una partita complicatissima, ma proprio per quello che diceva Regalchetti non starei tanto a preoccuparmi dell'energia che avrà l'Italia, di quanto può aver speso, perché avrà un sacco di benzina emotiva. È tornato Pierluigi Pardo e c'è anche, ci sei Pier? Sei lì? Sì, ci sono, sì, ecco. Pensavo che, se non ti offendi, secondo me c'è un metodo infallibile per vincere anche oggi. Cioè? Devo fare pronostico. Quella cosa di ieri. Vabbè. Perdiamo di 20, no? No, di 8. Di 8, vabbè. Sì. Perdiamo di 8 contro la Germania, padrona di casa. Io saluto e ringrazio anche Gianni De Biasi. Ciao mister. Ciao, un saluto a te Pierluigi. Ciao Pier. Come stai? Smaltita la rabbia per quello 0-1 con il Portogallo, sì, minuto 92. Dopo il gol al 92esimo che sì, partita ci toglie un punto, ma non ci toglie nessuna di quelle che sono le possibilità per andare a... No, basta leggere la classifica. Basta leggere la classifica che dice Portogallo 15 con 6 partite, Danimarca 12 con 7, Albania 11 con 6 partite, poi Armenia e Serbia che sono tagliate fuori da tempo. Tanto Pierluigi, sai che stanno nascendo dei gruppi di ascolto per le partite dell'Albania in Italia? Sì, devo dirti la verità, adesso non l'altro giorno mi sono collegato a un'applicazione che possiamo anche dire Live Score, che è quella che dà praticamente tutto il mondo guarda sui risultati, ed era il 90esimo e stavo festeggiando il pareggio della Danimarca, che mi sembra comunque la notizia più bella della serata per il mister, e poi in quel momento ha segnato il Portogallo. Però ecco, mi sembra che il lavoro del mister adesso sarà soprattutto quello di far capire che non è successo niente, no? Nel senso che voi avevate vissuto un momento magico da imbattuti, e paradossalmente la serata di martedì o di lunedì, quando era, è stata positiva. E questa è la battaglia psicologica, far capire, positiva, perché la Danimarca non ha vinto. Esattamente, bravo Pier. Allora, noi avevamo una partita, un ostacolo durissimo contro un Portogallo che ha sicuramente, da quando ha cambiato allenatore, quando è arrivato Fernando Santos, sicuramente le cose sono cambiate. Che l'hai fatto cambiare tu l'allenatore, tra l'altro, al Portogallo. Sì, purtroppo vincendola. Da un certo punto di vista. E da lì loro hanno vinto 5 partite su 5 e praticamente si sono già qualificati. Non è matematico, però per noi era duplice la valenza di questa partita, perché pareggiando o non facendo vincere il Portogallo, costringevamo il Portogallo a fare una partita anche per vincere contro la Danimarca. Così invece magari il Portogallo può giocarselo un po' più serenamente, puntare solo ed esclusivamente al pareggio. Però noi abbiamo 2 partite, in queste 2 partite se facciamo una vittoria, io sono convinto che andiamo come secondi direttamente. Dai, se non andiamo secondi direttamente, proveremo con i playoff, però torno a ripetere, faremo di tutto per andare ai playoff e andare direttamente in Francia. Certo, a proposito di ascolti, farei anche l'opinionista, leggevo, a 90esimo minuto. Sì, faccio qualcosa con la Rai e non solo, anche seguirò l'Europa League per cielo, sì. Canali Sky, mi interessa molto perché sono costretto a vedere delle partite, calcio internazionale che mi interessa, spesso e volentieri squadre che hanno anche giocatori miei, quindi questo è un aspetto duplice. Chiaro, chiaro. Intanto nel weekend sabato sera avremo il più classico, come dice Pardo, dei testa coda, cioè il Chievo primo in classifica a punteggio pieno sul campo della Juventus ultima, giusto Pier? Sì. Beh, questo fa effetto a tutti, immagino. No, ma io al mister vorrei chiedere una cosa sul Toro, perché conosce benissimo quella piazza e mi sembra, insomma, che mai come quest'anno ci siano veramente le possibilità per far bene, per poter fare un campionato importante, ovviamente, non da Champions League, forse da piazzamento in Europa League, o stiamo esagerando? Ma io credo che il Toro innanzitutto negli ultimi 2 anni si sia sempre ritagliato uno spazio in Europa, e questo sia sicuramente importante, un anno per un verso, l'anno successivo direttamente, e anche secondo me ben figurato in Europa League, andato a vincere contro la Creative Bilbao. È una squadra che un po' alla volta si sta posizionando in parte medio-alta della classifica, nulla viene per caso. Credo che la continuità del progetto, il fatto che il presidente Cairo abbia dato continuità a chi opera dentro il Toro, che abbia dato la possibilità di lavorare con serenità, credo che sia il primo aspetto sul quale puntualizzare, mettere il focus in questo momento. I primi anni lo ha riconosciuto lui, ha esagerato, pensava di aver capito già tutto, mentre il calcio non capisce una mazza neanche chi è dentro da 100 anni, così non si spiega certe situazioni, però credo che lavorare sempre con metodo, con perseveranza, senza farsi prendere troppo dall'isteria che c'è in questo mondo, credo che sia il primo presupposto per provare a fare le cose bene. Un'ultima cosa, mister, almeno per quanto mi riguarda, cosa mi dici di questo talentino albanese Manai, che è stato strappato dall'Inter alla Juventus? Dicono che sia una testa caldina. Pensi che possa avere un futuro immediato nella tua nazionale? Mi dici che giocatore è? Noi lo seguiamo già da un anno e mezzo, già da quando era la Sampdoria. È un ragazzo che ha delle ottime qualità, 97, però è un ragazzo che deve cercare di fare questo processo di maturazione che lo fa diventare da ragazzino a ometto, e lui questo passaggio qua lo deve fare sulle sue gambe, deve fare la propria esperienza. Mi auguro che abbia qualche chance con l'Inter e che questo non lo porti fuori strada, ma lo rinforzi ulteriormente, perché per noi sarebbe un giocatore veramente interessantissimo. Quindi, capito, Pardo, un balotellino. La chiave è sempre quella lì, è diventare umetti, certo. in ogni ambito della vita. Per un calciatore certe volte magari è più difficile, perché è un mondo abbagliante, dai, adesso credo che questo lo sappiamo tutti, no? È molto facile tante volte farsi prendere dalla demagogia e prendersela con i calciatori, considerarli viziati, ma in realtà è un vizio che sicuramente c'è, ma che ti espone anche a delle pressioni, e non bisogna mai dimenticarselo. Quindi ed è anche vero che un calciatore poi in campo viene giudicato per piccole variazioni di rendimento, cioè basta che cali un filo e già diventi improvvisamente un brocco, quindi non è facile, è bellissimo, sono strafortunati, ma non è facile, quindi credo che la chiave sia sempre quella, diventare umetti, certo. vedremo se lo diventerà. Grazie mister. Grazie a voi. Gianni, un saluto. Ciao, grazie, ciao, Gianni ciao. De Biasi. Pia, tu stai lì che adesso sentiamo il traffico e poi torniamo per parlare anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde. C'è chi mi chiede di ripetere il pronostico sul derby, l'ho già fatto, ho detto vince, secondo me vince il Milan 2-1, e ovviamente tutti gli interisti sono contenti, e dai che non, tanto non ne becchi uno, questo ci porta fortuna, non lo so, vediamo. It's time for Wayne Rooney. Convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta. Tutti convocati. Questo campionato di Serie A sarà più equilibrato di quelli passati? Dà la sensazione di sì, perché si sono rinforzate molto le due milanesi che mi pareva anche doveroso che lo facessero. La Roma mi pare una sensazione che abbia indovinato due o tre acquisti importanti nei posti dove gli serviva, il Napoli che sta cambiando, insomma dà la sensazione di ci possa essere un po' più di equilibrio. La Juve si parte sempre per vincere, state tranquilli che lotterà per vincere, poi dopo questo non significa che vincerà, ma ritornerà a lottare anche la Juventus per vincere questo campionato. La Roma è l'avversario più credibile? Sembra di sì in questo momento, anche se l'Inter dà sensazioni positive. Questo signore mi sembra di conoscerlo, Pierluigi Pardo. Marcello Lippi, anche bene, ovviamente, per quello che sta regalando soprattutto nel 2006, e devo dire che l'analisi mi sembra corretta, insomma, mi sembra corretta. È sicuramente un campionato più equilibrato di quelli precedenti, anche perché insomma se non lo fosse sarebbe incredibile, visto che gli ultimi campionati non sono stati equilibrati, soprattutto l'ultimo. E sull'Inter anch'io ho sensazioni positive, che sono arrivate, ti dico la verità, alla fine di un mercato complesso, cioè non sto rinnegando una serie di giudizi dati a metà mercato che mi sembravano meno meno entusiastici, sì. Però alla fine l'Inter ha trovato una quadratura, perché ha trovato giocatori come Jovetic, perché ha sistemato l'ultimo giorno comunque con tre acquisti delle parti importanti, che lì tra l'altro ha sottolineato, mi piace moltissimo, che secondo me rischia di rafforzare una diretta concorrente, insomma Hernanes è molto molto importante nel centrocampo della Juve. Certo, senti, vorrei parlare con te di altri due giocatori sempre in chiave europea. Uno si chiama Zlatan Ibrahimovic, ieri con la sua Svezia ha perso in casa 1-4 con l'Austria e rischia di star fuori anche a questo giro. Tra l'altro in maniera abbastanza incredibile, perché fino a pochi giorni fa la Svezia era in controllo assoluto della qualificazione, ha perso invece 1-0 contro la Russia, tra l'altro ha avuto una possibilità al 94esimo di pareggiare clamorosa e Akinfiev ha fatto una super parata e poi ieri sera c'è stato il tracollo. È un grande peccato, insomma, Zlatan appartiene a quella categoria di giocatori di nazionali così ed è un peccato. Penso a Ryan Giggs, che è uno al quale voglio molto bene, che ha fatto una carriera leggendaria, ma che non ha mai avuto per attaccamento nei confronti della sua radice, che è quella del Galles, la possibilità di brillare poi in una grande competizione. E oggi paradossalmente questa possibilità ce l'avrebbe, perché il Galles si sta qualificando agli europei, certo. Quindi forse sarà anche un po' triste, ma in realtà sarà felicissimo di aver contribuito a tutto questo. E, però è così, su Zlatan sicuramente c'è un po' di rammarico, anche perché in Champions non gli ha detto benissimo. Io sono di quelli che pensa che non è che sia un giocatore che sente particolarmente le grandi partite. Io penso che la Champions è fatta anche di casualità. Certo. E quindi non mi sento di imputare come Ibrahimovic che non ha mai alzato quella coppa. Dai Pier, uno come Ibra che non ha mai alzato quella coppa è una sorta di falso storico, che però capita certo. Soprattutto in uno sport capriccioso come il calcio. Il secondo giocatore, facciamo Roberto da Genova. Il secondo giocatore che volevo citare è invece quello che ieri ha tagliato il traguardo dei 50 gol con la sua nazionale e si chiama Wayne Rooney. Roberto, buongiorno. Buongiorno, volevo chiederle una cosa, niente, sì. Volevo che parlasse un pochettino della nazionale di basket, del rendimento della nazionale di basket, dove può arrivare e se se uno sport così importante come il basket in Italia non si poteva far vedere in chiaro, c'è un impegno di farlo vedere in chiaro. Ho capito, ma queste sono altre logiche, potremmo dire la stessa cosa del calcio, dei mondiali di calcio, delle Olimpiadi. Secondo me dobbiamo un po' abituarci a pagare per vedere lo sport, non c'è niente di peccaminoso in questo, Pierluigi. Sì, francamente penso di sì, nel senso che poi alla fine lo stesso discorso che viene fatto per esempio a proposito delle prime due partite di Champions League che vanno solo su premium, sono investimenti fatti dalle aziende, Sky nel caso del basket, Mediaset nel caso della Champions League, e quindi ci sono logiche commerciali dietro. È chiaro che in assoluto è un peccato, no? Che si debba, cioè, sono chiaramente eventi di interesse nazionale, però questa è la logica, è una logica commerciale, è una logica che regge il sistema, quindi francamente mi sembra una giusta sottolineatura che condivido, ma poi alla fine c'è poco da fare. Ma vale anche poi per la Formula 1, vale per il motomondiale, certo. Vale ormai per tutti gli sport, poi stiamo a dire devono essere fatti vedere in chiaro. Io posso rispondere che la beneficenza nel 2015 è difficile trovarla, anche televisivamente parlando. Ciao Pierluigi. Ciao, un abbraccio. Allora ci fermiamo per il GR, ma poi torniamo insieme un'altra mezz'ora. 800 24 00 24 è il numero verde. Di cosa parleremo? Un po' di derby magari, eh? Cosa dite? Così. Io vi aspetto a parlare di derby, 800 24 00 24. Parleremo certamente invece di tennis, di quello che ha fatto questa meravigliosa signora del tennis italiano, che si chiama Roberta Vinci e che per la prima volta nella sua carriera si è arrampicata fino alla vetta di una semifinale di un torneo del Grand Slam, nella fattispecie US Open, aspettando la Pennetta che gioca alle 17 ora italiana contro la Kvitova. A dopo. Arrivederci su questi prossimi schermi. Ciao amore mio. Diretta da Vittorio. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Tutti convocati. È bello così, dai, dopo tanto tempo c'è un derby elettrico, siamo pronti, siamo tutte e due le squadre, dopo un mercato da parte dell'Inter chiuso alla grande, ci sono le aspettative belle, grandi, che i nostri tifosi vogliono vedere già da domenica sera. Ma loro ultime due partite ha vinto Milan, se mi ricordo bene, in Cina è trofeo team, perciò la palla passo al Milan che è favorito in questo derby. E Perisic è uno che è abituato a lavorare, ha grandissime qualità tecniche, tattiche, è uno che si sacrifica per la squadra. E questo era Jacky Stankovic, club manager dell'Inter, che ovviamente gioca a nascondino. No, loro hanno vinto il derby in Cina, vi ricordate quello del super gol di Mexes, e poi al trofeo team, per quel che può contare. Quanto conta Michele Dalai, che piacere ritrovarti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il ruolo di favorito da interista lo vuoi, oppure la pensi come Stankovic? Vadano avanti loro, che a noi viene da ridere. Ma io sono curioso più che altro, perché sai, la prima squadra che l'Inter affronta, la prima squadra che non si chiuderà nella propria tre quarti con 10 uomini dietro il pallone più portiere, quindi per me è il primo vero test dell'Inter, di questa Inter, che rispetto a quelle di luglio è nuova e anche rispetto a quelle di agosto. Tecnicamente un po' inutile nascondersi dietro un dito, diciamo che i favori del pronostico e anche un certo brio della finale di calciomercato porterebbero l'Inter a giocarsi un ruolo un po' più da favorita. Poi Dejan Stankovic, che è il fratello che non ho mai avuto, fa bene a scherzarci su, ecco. Sì. Senti, difficile nascondersi. Sei un manciniano di ferro? Perché sai che Mancini quest'anno non può sbagliare, mi hanno preso tutti i giocatori che voleva, adesso lo stesso tu gli chiede di fare un super campionato, quindi anche lui sarà sotto pressione, anche lui non può più nascondersi, Michele. Guarda, io non sono un manciniano di ferro, perché sono uno di quelli che sosteneva che il povero Mazzarri dovesse finire la sua stagione e che Mancini in realtà nel primo semestre interista, dopo un po' di proclami, ha mostrato grandissima confusione. Poi sono uno di quelli che è convinto che Mancini con questa rosa davvero, come dici tu, non possa più nascondersi, quindi l'uomo sotto esame è che si possa ribaltare su Condobbia, sui giocatori, sui nervi scoperti di alcuni di loro, sui cardi all'anno della verità, quello sotto esame è Mancini, dalla prima all'ultima giornata. Diciamo che le prime due sono due stiracchiate sufficienti. Sì, intanto sono 6 punti, meglio farli che non farli, diceva quello là. Ah beh, certo, ma guarda, se mi porti 38-1-0 io posso dirlo, però non credo sarà così. Ah, non credo nemmeno io. C'è chi dice che questo derby arriva troppo presto, in effetti è presto, terza giornata, siamo reduci alla sosta della nazionale, ma sai che secondo me non è neanche un male, perché da troppi anni, come diceva anche Stankovic, siamo abituati a vedere dei derby di Milano piuttosto deprimenti dal punto di vista della classifica, almeno qui è tutto da fare. Vero, verissimo, siamo abituati a vedere dei derby di Milano deprimenti dal punto di vista della classifica, e quello che si è visto in campo negli ultimi 2 anni è più o meno un incubo, tolto il colpo di tacco di Palacio e qualcosa di decente, ma il resto è stato orribile. Arriva presto, però arriva con lo stesso tipo di entusiasmo con cui Inter, per esempio, affrontò il derby, quel 4-0 di Murignano a memoria, e altre partite vinte dal Milan altrettanto presto, quando ancora i giochi andavano fatti. Potrebbe essere per l'uno o per l'altra una buona iniezione di fiducia. Sai, per l'Inter sarebbe vincerne 3 di fila un viatico completamente diverso rispetto alle vesti strappate di 20 giorni fa. Ha voglia. L'unica cosa è che questa partita qui teoricamente non la può perdere nessuno, soprattutto il Milan, per varie ragioni, quindi l'opinione comune è che sarà un bel pareggione, secondo Giorgio De Luca 1-1. Secondo me finirà con un risultato diverso, ma l'aria del pareggio c'è, anche se il derby poi vai a capire se dopo 5 minuti si riapre tutto, la partita esplode, eccetera. Diciamoci una verità, una delle poche che si possono dire sul derby: io non ci capisco nulla, entrai al derby dello 0-6 convinto di fare un sol boccone del Milan e rimasi sugli spalti per 3 quarti d'ora dopo la fine della partita involto, quindi è difficile interpretarli, e c'è molto molto sta nella grinta, nella carica agonistica, questo sì, nel derby che si mette nei giocatori, non eccessiva, e in questo Mihailo c'è un piccolo vantaggio competitivo, questo va assolutamente detto. Hai paura dello spauracchio Balotelli o no, non te ne può fregare di meno? come la profezia dei Maya, non ha funzionato quando doveva, però poi farà un gol nel derby Balotelli, quindi non ho paura, può succedere. Il giocatore di su cui abbiamo già detto, avete già detto, si è già detto tutto, facendo l'attaccante prima o poi farà anche un gol, no? Se gioca, poi gioca vicino alla porta come gli ha chiesto di fare Berlusconi, poi se comincia a tirare di più e tutte queste adesso cose. Non vorrei citare il Paron, non vorrei citare Rocco, però insomma siamo lì, visto che prima o poi anche a tirargliela addosso una palla rotolerà dentro. Non è un incubo perché gli passaggi antipatici dell'Inter ne ha già fatti a sufficienza, diciamo che non mi ferirebbe più di tanto. Non ti ferirebbe più di tanto, però la storia è abbastanza romanzesca. Io non mi aspettavo mai nella vita che Balotelli potesse tornare a Milano, al Milan, eccetera. Ma guarda, io credo che non se lo aspettasse neanche lui, tanto che è una di quelle chance rispetto alle quali, per esempio, la scelta di parlare poco, di fare una cosa che lui in genere non ama molto, cioè stare lontano dai riflettori, mi sembra per un dono enorme ricevuto, un piccolo impegno che si sta prendendo, patente ritirate a parte. L'abbiamo già vista tante volte, insomma. Sì, ma poi sono della scuola, dicevo Olivieri l'altra sera, il problema è più la Lamborghini, che anche in prima va a 150 all'ora, quindi forse il problema è la Lamborghini, non chi la guida. Poi se poi la guida Balotelli, allora diventa un problema sopra l'altro. È una somma, bravo. Grazie Michele, è sempre un piacere. Ciao Michele Dall'Ai. Ciao. Allora, torniamo agli ascoltatori? Dai, 800 24 00 24, totalmente schema libero, a partire da Tommaso da Latina. Buongiorno. Buongiorno, lei ci ha invitato sul tennis, grazie per avermi convocato. Prego. Grande amante di Federer, cominciai ad avere simpatia per Federer Nadal solo perché vinceva sempre Federer, però innegabile il suo talento. Oggi è di una noiosità il tennis, pazzesco proprio, sanno soltanto buttare la palla dall'altra parte, o si chiami Djokovic o si chiami Marco. Beh, insomma, Federer è ancora lì, Federer è ancora lì, è ancora in corsa. Io soltanto per la noiosità, tra l'altro, diceva sempre che facevo il tifo per Natale, non per qualche altra cosa. Certo, perché le dinastie, le tirannie sono nello sport, ti fanno passare la poesia. Volevo fare soltanto un parallelo con un'altra mia passione. Ecco, se il tennis è noioso perché purtroppo ha ragione chi fa più, e quindi ha ragione Djokovic, e indubbiamente di questo, la Formula 1 è noiosa per colpa di tutti quelli che ci stanno dentro, iniziando di tutti i responsabili, iniziando da Ecclestone. E poi vorrei chiedere una cosa, scusate, ma la Germania è un mondiale di Formula 1, un circuito di Formula 1? No. Perché non si è voluto piegare a Ecclestone. Sì, perché in casa della Mercedes il mondiale non c'è. La corsa per il mondiale non c'è in casa della Mercedes, e questo è curioso, e questo fa riflettere molti e preoccupa molti per il futuro del Gran Premio di Monza. Sappiamo che l'anno prossimo esiste ancora un contratto e poi bisognerà scucire i denari, ma queste sono le regole del gioco. A questo proposito, guardi, le faccio ascoltare due voci, visto che ne ha parlato lei, di Formula 1. C'è Briatore che parla di Hamilton, e poi sentiamo anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che invece parla della questione di Monza. Mondiale che vincerà sicuramente senza nessun problema, e vinceranno tutte le gare che di qui a fine campionato purtroppo ci sarà non più delle gare tra nessuno, perché Rosberg non ce la fa a star vicino a Lewis, e Lewis vincerà, se non avrà degli incidenti, quasi tutte le gare, credo. Cioè, mondiale suo, a meno che non esiste, cioè hanno un vantaggio talmente forte che ti puoi permettere anche di sbagliare, per cui guidano. Lewis in questo momento guida molto bene perché non c'ha più pressione, sbaglia molto meno, ha una macchina spettacolare, lui è in grande forma. Rosberg purtroppo mi sembra che subisca Hamilton in modo anche eccessivo, per cui è il padrone della situazione. Qui purtroppo non si ragiona con la storia di un meraviglioso autodromo come Monza, con tutto quello che è stata la sua epopea, ma con un signore che, per carità di Dio, si occupa di sport, però sostanzialmente fa l'imprenditore, e fuori della porta ha molti posti che sono disposti, sì, Bernie Eccleston, e si è disposto praticamente a dare un certo tipo di ammontare per promuovere tramite la Formula 1 non un circuito ma un paese, per cui io penso che si potrà ottenere sicuramente magari una considerazione, la parola inelegante, uno sconto, però non pensiamo di andare oltre perché rischiamo di perdere. Beh, questo è saggio, Eccleston fa l'uomo d'affari, è lì per quello, per vendere dei gran premi, per vendere delle tappe della Formula 1, ed è inutile che ci giriamo intorno, quindi non so se ci sarà uno sconto, ma o arriva il grano o Monza tra due anni non farà parte del calendario. Notizie di fredda cronaca, come direbbe qualcuno. Miranda in prospettiva derby è tornato con un ginocchio malconcio dall'amichevole vinta dal Brasile con gli Stati Uniti, ha preso una botta, si farà visitare a Milanello, derby in dubbio, ma secondo me ce la fa, se è botta si risolve. E poi c'è, in caso di evento, c'è Hernanes che va verso il debutto e dice fremo, c'è invece Morata che ha la febbre e quindi Conte, ciao. Allegri potrebbe riconsegnare la maglia da titolare a Mandžukić. Federico Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti a tutti. Grazie. La trasmissione è fantastica, io vi ascolto perché trasmettete il vero valore di questo sport, che è passione pura con commenti sani. Grazie. Io sono interista e quest'anno spero proprio che Mancini ci riesca a fare quello che ha detto all'inizio. Cioè? Con tanto lavoro che riesca a vincere il derby, vincere il campionato e portare la nostra Inter ai livelli di... Cioè, lei vede già un Inter da titolo? Sulla carta sì, poi sul campo, come ha detto lui, bisogna rodare un po' i giocatori, però vedo che lo spirito è quello giusto. Sono d'accordo con Decchi, le parole che ha detto lui sono vere e speriamo tanto che questo derby sia favorito il Milan, ma lo vinca l'Inter. Certo, come sempre, no? Ma prima di partite come questa si gioca sempre a rimpiattino. Favorito l'altro, io non ne voglio sapere. Marco Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao. Ciao. Io volevo tornare sull'argomento basket, se possibile. Come no, volentieri. Mi ricollego all'ascoltatore di prima che parlava del fatto che i campionati europei sono trasmessi da Sky a pagamento, eccetera. Quella è una cosa normalissima, quindi sappiamo tutti come funziona il business. Volevo sottolineare il fatto che invece il campionato italiano lì è una tragedia, nel senso che è trasmesso un po' da Rai 1 e Rai 2, ma il resto è lasciato a delle televisioni locali che sono spesso pessime in trasmissione. Addirittura si blocca l'immagine. Beh, sai che anche Sky è tornata nei giochi perché ha acquisito due dei tre pacchetti che erano in vendita per questo campionato, quindi l'anno prossimo, nella prossima stagione che inizierà dopo gli europei, la pallacanestro la vedremo sulla Rai e su Sky, una partita alla settimana alla Rai con diritto di scelta del big match di giornata e due partite per Sky alla settimana, quindi anche da questo punto di vista c'è qualche novità. Ma no, dico, è un passo in avanti, mi sembra una cosa buona. Sì, poi arriva chi dice: ma io perché devo pagare per vedere? Perché nell'NBA non è che le partite te le fanno vedere gratis, tanto per dire, sono sistemi molto sofisticati. Ad esempio, io la prima volta che ho visto le partite NBA sul sito dell'NBA in streaming, costa, non ricordo, più un centinaio di dollari a stagione, e ti offre una libreria di tutte le partite, ma con una qualità che io su un computer portatile sinceramente non avevo mai visto. Penso che questo potrebbe essere replicato anche per il campionato italiano. Anch'io non riesco a vedere normali programmi su internet in streaming con l'immagine che si inchioda ogni 30 secondi. Paolo Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Carlo. Ciao. Volevo parlare, tralascio i complimenti. Grazie. Volevo parlare anche di basket. Sì. Per la partita di stasera, Germania. Io penso che, e dopo ti chiedo anche un commento, evidentemente un giudizio. Secondo me l'Italia sarà molto più semplice giocare con la Germania rispetto alla Francia, questo è scontato. però sarà anche molto più semplice rispetto alla partita con la Turchia, perché con la Turchia punti di riferimento particolari non ne avevamo, e se li avevamo sui punti esterni, sì. Invece sulle zone esterne. Invece contro la Germania, e per di più ancora contro la Spagna che ha Gasol, e contro la Germania invece che ha Plyce, ma che non so se giocherà in alternativa a Nowitzki oppure se giocheranno insieme. Comunque, in ogni caso, visto che ci potranno essere giochi di ripost, sarà molto più semplice per l'Italia tatticamente, disporsi tatticamente in difesa decisamente, perché poi dopo l'attacco è una storia a sé, sì. Giocare a 60 punti, a 70 o a 95 come contro la Spagna, quando ne fai 105 diventa tutto più semplice, vuol dire che hai anche una tranquillità, ma è anche una giornata. E poi Paolo, oggi la pressione, vabbè, su un europeo che gioca in questo modo eccetera, la pressione ce l'hai sempre, no? Però la Germania, che arriva da due sconfitte, padrona di casa, a Dirk Nowitzki, insomma, penso che sarà una partita molto molto molto combattuta, e non vedo un grande margine né da una parte né dall'altra, al di là dei discorsi tattici. Io saluto e ringrazio invece Barbara Rossi, che ci sta raccontando il meraviglioso US Open. Ciao Barbara per Eurosport. Ciao a tutti. E beh, ieri grande regalo, il regalone è arrivato da parte della signora Roberta Vinci. È vero, la signora Roberta Vinci, che insomma è un premio alla carriera, perché a 32 anni aveva raggiunto già i quarti agli US Open due volte, tra l'altro perdendo sempre da italiane, una volta nel 2012 da Ferrani e l'altra nel 2013 con Pennetta. Invece ieri, in una partita difficile, faticosa, a 40 gradi, è riuscita a conquistare la sua prima semi. È veramente un premio a una ragazza che ha creduto da sempre di poter ottenere risultati speciali. Sembra che le energie per questa signora non finiscano mai. No, è vero, infatti è crollata la sua avversaria che ha 22 anni contro di lei che ne ha 32, è venuto i crampi, ha fatto molta fatica, invece Roberta sembrava una giovincella, diciamo così. Sì. Con Serenona non la vedo semplicissima, onestamente, no, anche adesso... se lei l'ha detto, io vorrei Serena che ha vinto il derby di famiglia con Venus. Sì, insomma, è una partita quasi impossibile. La stessa Roberta Vinci penserò in campo col casco, perché insomma ha un ritmo di gioco troppo più alto, sta giocando bene, è in missione, perché è in missione per la conquista del quarto slam dell'anno, e che diventerebbe un grande slam, cioè tutti gli slam conquistati nello stesso anno. Sta giocando benissimo, ha battuto la sorella giocando un tennis eccezionale, l'abbiamo commentato proprio stanotte. Quindi insomma è chiuso il suo torneo, però che torneo. Sì, sembra inattaccabile Serena Williams, come sì. Le capita quando gioca su questi livelli e sta in questo modo fisicamente, perché non dimentichiamo che comunque è una giocatrice che ha bisogno di essere vicina al 100% dal punto di vista fisico. E invece racconti più tardi alle 5, ora italiana, Flavia Pennetta contro la Kvitova. Sì, esatto, anche Flavia cerca la sua seconda semifinale, perché lei era già arrivata in semifinale qui nel 13, 2013. Nel 2013, proprio battendo Roberta Vinci nei quarti. Gioca contro una giocatrice difficile per lei, insomma si sono incontrate 6 volte e sono 3 pari come scontri diretti, però le ultime 3 le ha vinte Kvitova, che è insomma difficile, mancina. Serve bene, quindi insomma per Flavia sarà assolutamente necessario riuscire a servire bene e rimanere un po' tranquilla per cercare di rimanere agganciata alla sua avversaria e fare lo sprint finale. Comunque un gioco che le dà molto molto fastidio, insomma speriamo, visto che la Kvitova quest'anno ha avuto qualche problema, ha avuto la mononucleosi all'inizio dell'anno, insomma speriamo che Flavia la faccia sentire ancora più stanca, diciamo. Sì, senti, comunque i sogni non costano niente, quindi non è che un sogno, è anche una possibilità o poco più si comincia. Sì, no, è anche una possibilità, però sono d'accordo con te, è molto difficile per Flavia, però il sogno, sì, di due italiane nelle semifinali degli US Open, io quantomeno fino alle, non lo so, 7:30, 8 me lo voglio tenere. Okay. Certo, proviamo. E poi ricordiamo che le ragazze sono in semifinale anche in doppio, quindi... Sorry, certo. A quelli ci siamo quasi abituati. Meravigliosamente abituati. Barbara, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Barbara Rossi, poi ce la guardiamo, la Pennetta su Eurosport alle 5. Gigi da Milano, buongiorno. buongiorno a voi, anzi grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Io vi seguo sempre, sono arrivato un po' tardi in radio oggi perché sono in giro per lavoro, però in realtà volevo ributtarti un dilemma. Sì. Nel senso, seguo il basket, soprattutto la nazionale, da diverso tempo, ultimamente vedo soltanto brutte partite. Ieri, per motivi di lavoro, non ho potuto assistere alla partita con la Spagna, abbiamo vinto. Sì, ma poi è stata Gigi, è stata indimenticabile, ma non è che abbiamo vinto. La vedo o non la vedo ma la partita? Ma stai scherzando? Hai tempo? Non so se hai da fare, se puoi collegarti alle 17:45. Sono è da vedere, assolutamente. Posso dirti, ti faccio una confessione, non volevo rispondere alla telefonata perché nel frattempo che stavo aspettando ho ricevuto una bruttissima, veramente una bruttissima notizia per me, perché io sono un allenatore di calcio a livello giovanile, purtroppo stanotte, ma l'ho ricevuta veramente 10 minuti fa questa notizia, ha perso la vita un ragazzino di 19 anni che tempo fa era uno dei miei esordienti, quindi però amo la vita e penso che abbiamo il bene più prezioso, quindi volevo condividere con te questo aspetto. Grazie. Per quello la vedo sempre in senso positivo, no? Poi oggi per la legge dei grandi numeri, una cazzo di partita della nazionale da vincere, e sto pensando a questa cosa, ma in realtà penso a Mirko, a cui dedico un pensiero, a lui e alla sua famiglia, perché purtroppo questi ragazzi oggi non hanno veramente il senso, cioè io penso che si sia perso il senso del valore in tutte le cose. Senti, io desidero ringraziare te per questa telefonata, ma davvero è con il cuore, Gigi. Grazie, grazie, grazie. A voi. Fabio da Pordenone, abbiamo meno di un minuto. Buongiorno, sì. Fabio. Buongiorno. Dopo la telefonata di prima è un po' difficile parlare, sì, di calcio. Niente, volevo un vostro parere su Allegri. Che senso ha far giocare Padoin due partite cruciali e poi non convocarlo in lista Champions? Secondo voi questa è stata una mossa per volere il famoso trequartista? Una mossa di pressione sulla società? Una mossa di gestione, quasi essere. Dico, io gioco così, vedete che così non faccio nulla? Vedete che così non riesco ad andare avanti? Sì, questo può essere stato realistico, però la Juventus è stata completata. D'altra parte non dimentico nemmeno che il Milan ha giocato in campionato con Suso e Nocerino ampiamente sul piede di partenza, comunque non figura nelle rotazioni. Possiamo dire lo stesso anche per Mihajlovic. Allora, mi prendete Witzel, mi prendete Soriano, sono io, questi ho e questi faccio giocare. Sono cose che ogni tanto gli allenatori fanno. Ragazzi, ci sentiamo domani dalle 2. Giorgio De Luca, il nostro autore, Pietro Lacorte in regia, Giovanni Melchione in redazione. Ciao!